Bonana lela ndo sombele jaribu bonana lela Iyero soba bonana lela ndo sombele jaribu Bonana lela Iyero soba bonana lela ndo sombele jaribu Kina mokita Iyero soba kina sokiti nendele madame Kina mokita Iyero soba kina sokiti nendele madame Bana bene Iyero soba bana bene yo ila kelito yo Bana bene Iyero soba bana bene yo ila kelito yo Amise seri anke bonana lelo Bonani